preghiere inutili. Nei suoi viaggi missionari, l'apostolo Paolo aveva fondato la chiesa di Corinto. I credenti di Corinto erano zelanti, la chiesa abbondava di vari doni, parlavano in lingue, ma erano disordinati nel culto. Non si comportavano con saggezza. Nella sua prima lettera indirizzata a loro, l'apostolo Paolo risponde a vari interrogativi posti dai corinzi e prende l'occasione anche di esprimere il suo parere in merito al culto. Poiché i corinzi desideravano ardentemente di parlare in lingue, l'apostolo cerca di indirizzare questo desiderio nel modo giusto, dicendo che la cosa più importante non era parlare in lingue, ma edificare la chiesa. Poi continua dicendo: così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della chiesa. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Che si deve dunque fare? Pregherò con lo spirito, ma lo farò anche con la mente. Canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. 1 Corinzi 14 e 12-15. Paolo insegna ai credenti come devono pregare. Sembra molto strano che si debba insegnare come pregare, perché se ci è un'espressione che dovrebbe essere spontanea, è proprio quella di pregare. Ma evidentemente non è così. Anche la preghiera, come ogni altra espressione di fede, deve essere supportata dalla ragione. È vero che la preghiera deve essere guidata dallo Spirito Santo, ma questo non toglie l'uso della ragione. Coloro che pregano pensando di essere guidati solamente dallo Spirito Santo, purtroppo non sanno che sono facile preda del diavolo perché, per quanto possa sembrare strano, ad essere più esposto alla seduzione del maligno non è il credente tiepido o soddisfatto di sé, ma quello fervente, colui che arde per il regno di Dio. Per quale ragione? Mentre Dio chiede che il credente collabori con Lui, ponendo in azione il discernimento, la conoscenza e la volontà. Satana costringe le persone ad agire come macchine prive d'ogni facoltà, di decisione e di pensiero. Se non siamo in grado di scoprire questo principio fondamentale, saremo ingannati e vivremo sotto l'oppressione di un potere esterno, diabolico, camuffato da volontà di Dio. Dunque, come si possono fare preghiere biblicamente esatte, senza essere guidati dalla persona dello Spirito Santo? È altresì vero che si può avere uno spirito buono e fare preghiere sbagliate. Di preghiere sbagliate ce ne sono di tanti tipi, come per esempio avere una motivazione malvagia, ma noi ci occuperemo di quelle preghiere che sono inutili. È stato detto che la preghiera è ogni forma di comunione con Dio, ed essa abbraccia l'adorazione, la lode, il ringraziamento, la supplicazione e l'intercessione. Ma generalmente l'esperienza più comune per un figlio di Dio è la preghiera di richiesta. E questo è normale e umano. Noi siamo limitati, bisognosi, fragili, e perciò è d'obbligo che ci rivolgiamo a Dio chiedendo. Si chiede perché non si ha, diversamente non si chiederebbe. Ed è qui che subentra la necessità dell'intelligenza e della conoscenza. Io devo conoscere quello che non ho per poterlo chiedere, e devo conoscere quello che ho per non chiederlo. Chiedere ciò che si ha non ha senso, come sarebbe grave non chiedere quello che non si ha. Perciò è necessario essere guidati dallo Spirito Santo quando si prega, ma, come disse l'apostolo Paolo, è necessario anche pregare con l'intelligenza. Chiedere ciò che si ha non è solo mancanza di conoscenza, ma anche di rispetto verso colui che ci ha donato le cose. E mettere in dubbio ciò che abbiamo è dare del bugiardo a chi dice di averci dato le cose. Proprio per questo, le preghiere non sono solo inutili, ma anche offensive. Purtroppo, molti figli di Dio passano molto tempo a chiedere ciò che hanno già e non si accorgono che davanti a loro vi è la tavola imbandita. Per non cadere nell'errore di preghiere inutili e offensive, un figlio di Dio dovrebbe trascorrere più tempo a contemplare ciò che Dio gli ha dato e di conseguenza realizzarlo che chiedere con il pericolo di possederlo già. Cosa possiede colui che ha posto fede in Gesù quale Salvatore e Signore? È certamente impossibile elencare ciò che il credente riceve in Cristo perché egli in lui ha tutto pienamente, eppure sia Gesù, sia gli apostoli, sia la parola di Dio, ci invitano a chiedere per poter ottenere. Anche in questo caso occorre vivere su due binari di verità perché la nostra vita non deragli. Se diciamo a noi stessi che abbiamo tutto pienamente e non è necessario pregare per ottenere, chiudiamo gli occhi di fronte alla realtà. Se diciamo che non abbiamo nulla, facciamo Dio bugiardo. Una cosa è certa, Gesù ha promesso di essere sempre con coloro che avrebbero creduto in Lui. Per questo non ha senso di pregare che Gesù sia con noi. Il più delle volte questa preghiera viene formulata perché noi ci sentiamo soli, ma la fede dovrebbe e deve correggere i nostri sentimenti. In un brano significativo nella lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo mette in evidenza quanto sia ricco il credente. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Romani 5:1-11. L'Apostolo inizia dicendo che chi ha posto fede in Gesù è giustificato. Chi dice di aver creduto in Cristo non può chiedere di essere perdonato perché essere giustificati significa essere resi giusti o dichiarati giusti. Come può una persona chiedere perdono dei suoi peccati a Dio se l'ha già chiesto ed è stata resa giusta davanti a Dio? Il credente accetterà il perdono di Dio mentre confessa i peccati che commetterà. 1 Giovanni 1:9 ringrazierà del perdono già offerto perché è cosciente di essere stato reso giusto dal sacrificio sostitutorio di Cristo. Se chi ha posto fede in Gesù ha perdonati tutti i peccati passati, presenti e futuri, se è stato reso giusto, perché dubitare allora della certezza della salvezza? Chiedendo ogni giorno a Dio di essere giustificato si rende Dio bugiardo. Chi è stato giustificato ha la pace con Dio. Ancora una volta, questa pace non è il risultato di un sentimento, ma di sapere che Dio ha ritenuto sufficiente il sacrificio di Cristo per riconciliare a sé tutti gli uomini. Inoltre, chi ha posto fede in Cristo ha ricevuto lo Spirito Santo, mediante il quale ha l'amore di Dio sparso nel suo cuore. Come mai vi sono credenti che pregano per ottenere lo Spirito Santo? Come mai si prega per avere l'amore necessario nei confronti di coloro che ci odiano o nelle situazioni difficili? Il figlio di Dio prega perché non sa di avere l'amore o non ci crede. Il figlio di Dio prega di avere lo Spirito Santo perché non sa di averlo o non ci crede. Chi prega di avere lo Spirito Santo sappia che non ha l'amore di Dio nel suo cuore e non appartiene a Cristo. Paolo è stato categorico quando disse che se uno non ha lo Spirito di Cristo non appartiene a lui, Romani 8:9. A volte mi domando se è proprio per ignoranza che si formulano certe preghiere, o se è per mancanza di fede. Comprendo sempre più perché sta scritto che chi non ha fede non può piacere a Dio. Quanti credenti fanno preghiere inutili e non piacciono a Dio? Il credente in Cristo è stato equipaggiato per vivere una vita vittoriosa e abbondante, e Dio non lo ha messo nel campo di battaglia senza equipaggiamento. Quando Paolo scrisse la sua seconda lettera a Timoteo, disse: «Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di disciplina». 2 Timoteo 1:7. Che cosa può desiderare il credente di più? Che cosa può chiedere ancora? Se chi ha posto fede in Gesù ha uno spirito di forza, perché chiedere la forza necessaria in certe circostanze? Perché chiedere l'amore se si possiede già? Perché chiedere uno spirito di disciplina? Non è forse più saggio dimorare in queste promesse, viverle e credere che possediamo queste virtù nonostante i nostri fallimenti? Non è più saggio chiedere al nostro Dio di aumentare la fede per mettere in pratica i doni che abbiamo ricevuto? Con questo non si vuole dire che non dobbiamo mai chiedere nulla a Dio, dato che nella preghiera modello del Padre nostro Gesù ci insegna a chiedere prima di tutto che la persona di Dio sia sempre onorata, e poi chiedere per le nostre necessità quotidiane, perché non portiamo le conseguenze dei nostri peccati, e di non indurci alla tentazione. Così ci ha insegnato pure di pregate il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe e per coloro che ci odiano. Anche Paolo chiese ai credenti di pregare per le autorità perché potesse predicare l'Evangelo francamente, che potesse essere liberato dagli uomini molesti, mentre Giacomo invita alla preghiera per i malati e per chiedere sapienza. Ma non leggiamo che chiedessero lo Spirito Santo, l'amore, la forza, o che potessero essere giusti davanti a Dio. Leggiamo dunque la parola di Dio con costanza e chiediamo al nostro Salvatore che ci illumini per mezzo della persona dello Spirito Santo, affinché possiamo sapere ciò che abbiamo ricevuto per la sua grazia, per non formulare ancora preghiere inutili. Novembre 2004, Ellero.